sole. Uno, due, tre. Prima di te non c'era il sole, prima di te non c'era il caldo, prima di te non c'era l'hangover il giorno dopo Capodanno. Niente mondiali di Berlino, nemmeno i nomi di Sanremo, o se ci penso c'erano già, ed ero io che non me ne accorgevo. Prima di te non c'era il vento, nessun concerto il primo maggio, prima di te non c'era un centro e il mondo girava a casaccio. Prima di te c'era già tutto, ma cercavo qualcosina in più e mi sono accorto solo adesso che eri tu. Non so se sei bella come il sole, oh, è il sole bello come te, ma tu dimmi come può questo amore diventare abitudine. Prima di te niente movida, niente Isola d'Elba né del Giglio, no niente Oscar a DiCaprio, nemmeno i gol di Ronaldinho, né Cremonini e la sua Vespa, né Valentino la 46. Prima di te niente Harry Styles o i Green Day. Prima di te niente locali, prima di te niente gin tonic, prima di te niente aeroplani, prima di te niente aquiloni, prima di te non mi vergogno a dire che com'era il mondo. Prima di te, sì, prima di te non me lo ricordo. Non so se sei bella come il sole, oh, è il sole bello come te, ma tu dimmi come può questo amore diventare abitudine, abitudine, abitudine, abitudine, oh, oh, oh, oh. Sei bella come il sole, oh, è il sole, bello come te.